forse non lo sapete, ma a proposito di musei, la nostra città, all'avido turista, non offre soltanto la possibilità di visitare l'Accademia di Brera, il PAC, il Museo della Scala, quel che rimane del Cenacolo di Leonardo di cui vi ho parlato, la Came, le raccolte d'arte al castello, dove, se date retta a me, sarà bene affrettarsi per ammirare la Pietà Rondanini prima che la nuova sistemazione in progetto la renda assolutamente invisibile a tutti, ma esibisce anche, accanto a un certo numero di esposizioni e raccolte minori ma non prive di interessi, un museo degli strumenti di tortura. Si trova in via Carducci al Civico 41, in quel bel esempio di falsa architettura medievale che è la Pusterla di Sant'Ambrogio, dove una volta era esposta, mi sembra, una collezione di armi antiche. Adesso, come non è, a giudicare dai poster affissi, vi ci si espone tra l'altro una sedia elettrica. E accanto alla sedia elettrica, chissà quali altri ammennicoli l'ingegnosità degli uomini è escogitato per assicurare ai propri simili un trapasso penoso e comunque prematuro. Io naturalmente in quel museo non ho mai posto piede e non vi consiglio di farlo. L'idea che di quegli orribili attrezzi si possa prendere visione per diletto senza esserci costretti, che so, da improrogabili ragioni di studio, mi dà assolutamente il volto a stomaco. Eppure il museo c'è e, dato che mi risulta essere gestito da privati, presumibilmente è frequentato da quanti visitatori bastano per rendere la gestione proficua. E basterebbe questo per confortare un'ipotesi che mi è capitato più di una volta di sottoporvi, quella per cui la popolarità di cui a quanto pare godono in tutto il mondo le punizioni fisiche, a partire dalle sculacciate ai bambini su fino alla pena di morte compresa, questa popolarità non è certo giustificata che se ne dica dalle austere motivazioni che i vari Bush e Doyle sono soliti addurre, ma dal fatto che a tormentare i propri simili fino al volerli liberare il loro malvagio dal fragile involucro terreno, la maggior parte degli uomini ci prova un terribile gusto. E non potendo per ovvi motivi farlo in proprio, si accontentano di lasciare che provvedano in forma delegata e sotto qualche accettabile scusa, di solito di natura giuridica, le autorità competenti. Che cioè le tristi fortune della tortura abbiano più a che fare con quelle pulsioni nella cui descrizione tanto si è distinto il compianto Marchese de Sade che con l'evoluzione del diritto penale. Mi direte, suppongo che così va il mondo e che non ci si può fare proprio niente. Sì, d'accordo, lo so anch'io. O meglio, forse qualcosina la si potrebbe fare, ma i risultati poi si potrebbero cogliere soltanto sul lungo periodo, per cui lasciamo pure perdere. Compiacciamoci di vivere in una città abbastanza civile, in cui il rifiuto della pena di morte è stato espresso anche di recente a livello di consiglio comunale, nonostante il colore di quella maggioranza politica, e lasciamo che il Museo degli Strumenti di Tortura lo frequentino soltanto quei tristanzuoli che vogliono frequentarlo. Tutto vero, eh? Ma c'è una cosa che mi dà un fastidio terribile, proprio un fastidio fisico. Uno di quegli strumenti, è una copia probabilmente, ma fa lo stesso, è esposto pubblicamente all'esterno della Pusterla. Si tratta di quella piccola gabbia di ferro sospesa in cui era uso, ai bei tempi, rinchiudere i condannati per lasciare che sotto gli occhi di tutti e nella più scomoda delle posizioni tirassero lentamente le cuoia. Anche se non avete pratica di strumenti mortiferi, avrete probabilmente fatto conoscenza con quel tuo progetto visionando in Cineteca l'Otello di Orson Welles, o leggendo, se siete particolarmente colti, leggendo nei saggi del Montaigne l'Apologia di Raimondo di Sobunda. Non so cosa dirvi. Sarà perché sono morbosamente sensibile o perché un po' soffro di claustrofobia, ma l'altro giorno mi sono accorto che da qualche tempo evitavo, a costo di lunghi e faticosi detour, di passare per la cerchia dei Navigli, che pure rappresenta per i miei spostamenti quotidiani uno dei percorsi più convenienti. Io quell'oggetto non lo voglio vedere, non mi piace che sia esposto in pubblico, ritengo anzi che il fatto che lo sia rappresenti una manifestazione insopportabile di violenza gratuita. È vero che quanto a violenza Milano soffre di problemi anche più gravi e immediati, ma il fatto che nella città del Beccaria, pover'uomo, si espongano pubblicamente degli strumenti di tortura e di morte non mi pare comunque insignificante. Voi che ne dite?